si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, si può fare nell'orario del nuovo formato, il sabato e la domenica, il sabato dalle 7.30 fino alle 10, domani invece dalle 8.30 fino alle 11, il buongiorno di Radio 24 nel weekend. Cominciamo subito con una iniezione di fiducia, una buona notizia. And now, the good news! Processi di delocalizzazione al contrario, dalla Romania all'Italia, la Natuzzi salva 1000 posti di lavoro. Che succede? Che erano annunciati diversi centinaia di esuberi alla Natuzzi pugliese e invece gli esuberi si riducono da 1726 a 1506, 250 persone restano al lavoro subito, altri 650 saranno rioccupati entro il 2014, altri 200 entro il 2018, con la creazione di due nuove società. Quindi invece di delocalizzare all'estero, la Natuzzi delocalizza sempre in Italia e il risultato è che i posti di lavoro restano per l'appunto in Italia. Ogni tanto una buona notizia. Sul fronte economico è stata questa l'estate che è appena trascorsa delle aziende che hanno delocalizzato all'estero. Allora ogni tanto andiamole a cercare queste notizie sul Corriere, questa di metà settimana. Ma andiamo sui giornali di oggi e vediamo di cosa si parla. Si parla naturalmente della strage senza fine nel mare dei migranti, scrive il Corriere della Sera. Naufragio al largo di Lampedusa, 50 morti tra cui 10 bambini, 200 salvati, ma la cronaca è quella che sentite nel corso dei giornali radio, perché è una vicenda che naturalmente è in corso di aggiornamento. Si rovescia un altro barcone, interviene la Marina. Letta, al vertice dell'Unione Europea si affronterà l'emergenza degli sbarchi, dice proprio Letta all'interno del Corriere. Più di così non possiamo fare, adesso è l'Europa che deve muoversi. L'Italia ottiene che il tema migranti sia inserito nel prossimo vertice dell'Unione Europea. Sulla prima pagina del Corriere c'è spazio anche per questa notizia: case popolari nelle caserme, nuovo piano contro il caro affitti entro l'anno. Il ministro Lupi dice misure allo studio, l'idea della cedolare secca per le società, ma anche quella appunto di fare case popolari all'interno delle caserme. Magari più avanti nella seconda parte di rassegna vediamo di cosa si tratta. C'è spazio anche per una polemica sull'assegnazione del premio Nobel per la pace. Non tutti hanno gradito, forse, o hanno apprezzato fino in fondo la scelta di assegnarlo ad una organizzazione. Premiata l'agenzia che opera in Siria, il Nobel senza volto è un'occasione perduta, scrive Pierluigi Battista. Il Nobel per la pace all'OPAC, l'agenzia contro le armi chimiche, va ad un organismo impersonale. L'anno scorso fu l'Unione Europea, ricorda Battista, e dimentica la storia atroce di Malala, la sedicenne pakistana massacrata dai talebani perché voleva andare a scuola. Ma vedremo che ci sono opinioni anche diverse. Sulla prima pagina di Repubblica, per restare a questo argomento, quel Nobel per la pace, scrive Vittorio Zucconi, ai cacciatori di armi chimiche. Il Nobel quest'anno coglie un bersaglio giusto, va ai cacciatori di gas, a quei pazzi coraggiosi che hanno fermato per ora la marcia della follia in Siria. Sempre sulla prima pagina di Repubblica, legge sul femminicidio, via libera al Parlamento, il governo, due punti, ora le donne non sono più sole. Andiamo velocemente leggendo i titoli sul Fatto Quotidiano, che apre su tutto come prima Lampedusa, altre decine di morti, ma ricorda un'altra notizia, la manifestazione di oggi a Roma. Napolitano dice cambiare la carta, oggi però tutti in piazza per dire no, ricorda il Fatto Quotidiano. A piazza della Repubblica alle 14 a Roma, con Rodotà, Zagrebelsky, Landini, Don Ciotti, ma anche Padellaro e Travaglio, con 440.000 firme raccolte dal Fatto contro chi vuole manomettere la legge fondamentale della Repubblica. Il presidente e Letta intanto ordinano andare avanti con le modifiche. Da una manifestazione all'altra, la prima pagina della Padania, legalità contro amnistia e clandestini. Il quotidiano della Lega ci ricorda che oggi a Torino c'è una manifestazione del Carroccio, il segretario federale dice la Lega scende in piazza per difendere legalità e sicurezza, sì alla legge Bossi-Fini, sapete si è aperto un dibattito per invece abolirla, no allo svuota carceri, che è appunto la proposta che viene da Napolitano di fare un provvedimento di indulto o di amnistia. Dice Cota, quando Maroni era ministro dell'interno, gli sbarchi si erano fermati, serve una linea di rigore, solo così si evitano queste tragedie del mare. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, invece, un'altra notizia ancora di ieri, importante. Alitalia salva, via libera all'aumento. Il Consiglio di amministrazione vara all'unanimità l'operazione da 300 milioni di euro, da Intesa San Paolo Unicredit nuove linee per 200 milioni, arriva anche l'ok di Air France, ma decideremo lunedì. Colaninno dice gli azionisti italiani sono disponibili, poi c'è anche un colloquio con Enrico Letta sulla prima pagina del Sole 24 Ore, a proposito dell'Italia, con l'ok dei francesi una buona notizia che dà ancora più respiro all'operazione. L'intervento di Poste ha obbligato i privati a investire scommettendo sul futuro, dice Letta, se si è arrivati a qui, fin qui, non è certo per nostra responsabilità. Dalla prima pagina invece del Messaggero, un'altra notizia di ieri, muore il boia delle Fosse Ardeatine, testamento shock sull'Olocausto, la notizia relativamente naturalmente alla scomparsa a 100 anni di Erich Priebke, dal quotidiano di Roma che l'ha ospitato in questi anni, volente o nolente. E leggiamo, non si era mai pentito, non ha mai avuto nessun barlume di resipiscenza. Le 335 vittime delle Fosse Ardeatine, le sue vittime, chissà quante ne ha uccise anche personalmente, non hanno mai destato in lui un frammento di commozione. Velocissimamente sulla prima pagina anche del Giornale, Forza Italia, la verità di Berlusconi, il futuro del centrodestra, è questo il dibattito. Il Cavaliere dice, Alfano e Fitto non vogliono dividersi, ma sono stati istigati. Intanto si ricorda, depositata la richiesta per i servizi sociali sui giudici, dice Berlusconi, vogliono farmi marcire in cella. Ci fermiamo qua per questa prima parte di lettura dei giornali di oggi, adesso vi lasciamo alla rassegna stampa europea, noi ci risentiamo dopo il giornale radio delle 8, 8 e 15 circa, più tardi, come si può fare? Sono Paolo da Lodi, io credo che per salvare l'Italia sia sufficiente smettere di parlare, cominciare a fare qualcosa, ecco questa è la ricetta semplice e breve, grazie, ciao. Ciao. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua con uno stacco sulla sigla, abbiamo problemi tecnici ogni tanto con i nuovi sistemi qui a Radio 24. Allora intanto buongiorno, ben ritrovati da me Alessio Maurizio, vi ricordo i nostri contatti, si può fare Radio 24 su Facebook, si può fare chiocciola, si può fare 24 su Twitter, il mio account è chiocciola Ale Maurizi. Tra poco si potrà anche intervenire in diretta, 800 24 00 24 come nella miglior tradizione di Radio 24. Riprendiamo le prime pagine dei giornali e poi cominceremo anche a fare qualche approfondimento questa mattina nel nuovo orario di Si può fare, dalle 7.30 fino alle 10 il sabato, dalle 8.30 fino alle 11 la domenica. Dal Corriere della Sera di oggi un approfondimento sulla vicenda Berlusconi. Il Cavaliere chiede i servizi sociali, il ministro Cancellieri dice amnistia, indulto non saranno per lui, ma Luigi Ferrarella scrive la scelta a sorpresa del domicilio ad Arcole, leggiamo, è ai 10.755 condannati che al 30 settembre scontavano in affidamento fuori dal carcere pene inferiori a 3 anni che Silvio Berlusconi chiede da ieri di essere accomunato, però poi spiega Ferrarella che nel suo caso ci vorrà molto tempo prima che i giudici prendano questa decisione. La sua domanda non verrà presa in considerazione prima della primavera prossima. I condannati con la lettera B, dice infatti Ferrarella sul Corriere, competono a Milano al giudice Crosti, la quale comporrà il collegio insieme al presidente bim bum bam bim bum bam, e dice ma a Milano per i non detenuti viene fissata in media non prima di 8-12 mesi dalla richiesta, per cui nel caso dell'ex premier sarà già tanto se sarà possibile celebrarla questa udienza prima dell'estate. Oh, poi ancora qualche approfondimento. La richiesta di affidamento in prova non costringerà l'ex premier a sottoporsi allo smacco di imbarazzanti mi pento, mi dolgo al cospetto del tribunale, perché nella prassi del tribunale di sorveglianza di Milano la cosiddetta inchiesta sociale viene disposta solo per i condannati a più di un anno, e quindi nel caso di Berlusconi non ci sarà bisogno di chiedere scusa, insomma, di fare il passaggio con l'autocritica davanti all'assistente sociale. Cosa dovrà fare Berlusconi se otterrà l'affidamento in prova? Dovrà rispettare poche prescrizioni standard, non frequentare pregiudicati, non uscire di casa dopo le 23 prima delle 6 del mattino. Solo al termine del percorso rieducativo, infine, si soppeserà in Berlusconi la rivisitazione critica, scrive Ferrarella, della condotta valsa della condanna. Il tribunale di sorveglianza o dichiarerà estinta la pena se la prova avrà avuto un esito positivo, oppure, attenzione, anche possibile che non sia così, ne certificherà il fallimento e farà rivivere la pena da scontare in via ordinaria. Cioè Berlusconi chiede l'affidamento ai servizi sociali, deve farlo, deve avvenire davvero questa cosa, perché non è solo una formula vuota. Alla fine, infatti, il giudice deve valutare se questa cosa è andata bene, ok, altrimenti viene rivitalizzata appunto la pena. Sempre dal Corriere, strage senza fine nel mare dei migranti, abbiamo letto il titolo. Naufragio all'arco di Lampedusa, 50 morti, tra cui 10 bambini, 200 salvati. Letta dice al vertice dell'Unione Europea si affronterà l'emergenza degli sbarchi. L'Italia, è l'approfondimento del Corriere, ottiene che il tema migranti sia inserito nel prossimo vertice dell'Unione Europea. Letta dice più di così non possiamo fare, adesso è l'Europa che deve muoversi. Vedremo tra poco, però, con l'ex europarlamentare dei Verdi Monica Frassoni, che l'Italia ha ricevuto molti aiuti dall'Europa in questi ultimi anni, e quindi non basta forse chiedere aiuto e sostegno all'Europa, ma bisogna rimboccarsi le maniche e fare qualcosa per evitare poi di ripetersi di cose come quello che è successo di nuovo ieri nel canale di Sicilia. Andiamo sul Sole 24 Ore per parlare della vicenda Alitalia. Ieri c'è stato il CDA, via libera all'aumento di capitale. Leggiamo: via libera all'aumento del consiglio di amministrazione di Alitalia alla manovra finanziaria per 500 milioni complessivi, destinata a ridare ossigeno alla cassa, scrive il Sole 24 Ore. 300 milioni arriveranno dall'aumento di capitale degli azionisti, 200 milioni da nuove linee di credito di Intesa San Paolo e Unicredit, e vai quindi ancora con le banche in primo piano in un'azienda italiana. Poste Italiane garantirà la sottoscrizione fino a 75 milioni e avrà una quota non trascurabile, si scrive sul Sole 24 Ore. Soddisfatto il presidente di Alitalia Colaninno per la disponibilità espressa da un congruo numero di azionisti a partecipare all'aumento. Occhi puntati intanto su Air France KLM, KLM, il principale azionista, che ha dato ieri l'ok, ma ha fatto sapere che deciderà lunedì prossimo, il giorno nel quale è prevista anche l'assemblea degli azionisti di Alitalia, che deve decidere se partecipare o meno a questa ricapitalizzazione. C'è anche un colloquio, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, con Enrico Letta a proposito di Alitalia. Letta che dice: l'ok dei francesi è una buona notizia che dà ancora più respiro all'operazione. L'intervento di Poste, dice ancora Letta, ha obbligato i privati a investire scommettendo sul futuro. Se si è arrivati qui non è certo per nostra responsabilità. Dunque, da Letta un beneplacito, diciamo, a quello che sta accadendo in Alitalia, cioè l'ingresso delle Poste, la ricapitalizzazione e via discorrendo, in attesa della conferma da parte di Air France di partecipare a questo piano. Torniamo invece su Repubblica, che dedica spazio naturalmente a quello che è successo nel canale di Sicilia, sia all'aumento all'Italia, ma Air France frena, in sottolinea invece Repubblica a proposito di Alitalia. E poi invece, per quanto riguarda la richiesta di impeachment da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti del capo dello Stato Napolitano e soprattutto sulla questione del reato di clandestinità, con Grillo che ha smentito alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle che si erano espressi favorevolmente all'abolizione di questo reato, scrive Curzio Maltese: Grillo, Napolitano e la mala politica. Se avessimo proposto l'abolizione del reato di clandestinità durante le elezioni, avremmo preso percentuali da prefisso telefonico. Ricorda, questa è la frase che hanno scritto Grillo e Casaleggio nel loro post, a proposito di questa vicenda, ricorda Maltese. La traduzione del Casaleggio pensiero è meravigliosamente semplice e suona così: noi non crediamo in nulla, non abbiamo principi, non siamo né di destra né di sinistra, come del resto abbiamo sempre detto, e non vogliamo cambiare nulla, diciamo soltanto quello che la gente vuol sentirsi dire in questo preciso momento per ottenere voti e consenso e poterci di conseguenza fare gli affari nostri, acquistare potere e piazzare chi vogliamo in Parlamento. Questo che scrive Maltese a proposito di Grillo e Casaleggio. Quando sei sempre d'accordo con la maggioranza, nessuno in questo paese ti rimprovererà mai di essere incoerente. Un'accusa pesante, sostanzialmente, dice Curzio Maltese. Grillo e Casaleggio non hanno la loro politica, non hanno un programma, per esempio, sull'immigrazione, ma dicono sempre solo quello che la gente vuol sentirsi dire, quindi il peggio, diciamo, della demagogia e della propaganda. Da un commento all'altro, il commento di Zucconi sul premio Nobel per la pace, che da qualche parte ha sollevato critiche perché è andata a una organizzazione e non a una persona, insomma. Per esempio, sul Corriere della Sera, facciamo questa premessa, scrive PG Battista: il Nobel senza volto è un'occasione perduta. Si è dimenticata infatti la storia atroce di Malala, la sedicenne pakistana massacrata dai talebani perché voleva andare a scuola. Invece Vittorio Zucconi su Repubblica non è d'accordo e dice che l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche nel mondo avvicina meglio in questo 2013 l'ideale voluto dal suo creatore: contribuire, se non alla pace, almeno alla non guerra. Senza quella trentina di ispettori, scrive Zucconi, e tecnici che da giorni stanno battendo a loro rischio e pericolo tra ribelli ed esercito egualmente spietati, la Siria, armati di tenaglie, seghe e a motore, fiamma ossidrica per scovare e distruggere le 1000 tonnellate di gas letali nascoste da Assad, oggi volerebbero missili e bombe per aggiungere morti a morti. Dunque c'è divisione, non c'è unanimità, c'è un po' di polemica, ci sono giudizi diversi sull'assegnazione del premio Nobel a questa organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Per quanto riguarda invece Priebke, sul Fatto Quotidiano, il nazista Priebke se ne va a 100 anni, davvero criminale. Scrive Furio Colombo: un severo robot del male nazista. E dice: Erich Priebke dimostra che il male non è banale, è intenzionale, è intensamente partecipato e vissuto come lo scopo stesso della propria esistenza, la certezza della propria identità e della propria vita nel momento in cui diventa missione. Perché scrive questo Colombo? Perché come ultimo lascito nella sua vita, Priebke ha appunto lasciato un video nel quale ribadisce tutte le sue certezze: nei campi di concentramento non venivano gasati i prigionieri, erano forza lavoro. Pazzesco, no? Ancora poco prima di morire, Priebke ha sentito il bisogno di rafforzare queste verità. Poi è stato sul suo processo, era un tribunale dove il vincitore è al tempo stesso pubblica accusa, giudice e parte lesa. Dico questo per il riscatto e la dignità del mio popolo. E poi su Vincitori e Vinti avrebbe lasciato detto in questo video, che qualcuno forse ha già avuto modo di vedere: i vincitori del secondo conflitto mondiale avevano interesse a che non si dovesse chiedere conto dei loro crimini, avevano raso al suolo intere città. Quindi i processi contro i nazisti, secondo Priebke, sono stati fatti come una ripicca dopo la fine della guerra mondiale. Vabbè, tutto questo ha a che fare con la scomparsa a 100 anni di Priebke. Ci sarebbe altro sui giornali, però adesso ci dobbiamo fermare. Sì, mi fanno segno dalla regia. 800 24 00 24. Invece tra poco apriamo i microfoni agli ascoltatori. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori. Intanto vi ricordo il numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco i nostri centralini saranno aperti al vostro intervento. E c'è un aggiornamento per quanto riguarda il bilancio del naufragio di ieri, che è di 206 naufraghi e 34 corpi senza vita recuperati. Lo ha fatto sapere proprio pochi minuti fa la Marina Militare. Si legge: nella notte è stato individuato un altro gommone a 80 miglia a sud-est di Lampedusa, dove si sono dirette la fregata Espero ed il pattugliatore Libra della Marina Militare. La nave Libra, accertate le precarie condizioni di stabilità, ha dichiarato lo stato di emergenza e sta procedendo a prestare soccorso e imbarcare anche questi nuovi migranti. Salutiamo Monica Frassoni, buongiorno. Buongiorno. Presidente dei Verdi Europei, ex europarlamentare italiana, che qualche giorno fa è intervenuta in questo dibattito che si è aperto soprattutto sul coinvolgimento dell'Europa da parte dell'Italia, un coinvolgimento richiesto, un coro unanime napoletano, Letta, Alfano, d'altra parte è sempre così quando ci sono le stragi nel Canale di Sicilia. Però lei ha scritto delle cose ricordando, puntualizzando un po' di cifre, un po' di numeri su quello che in effetti l'Europa ha anche fatto per noi, per esempio stanziando diverse cifre, diversi milioni di euro negli ultimi anni. Poi ci sarebbe da chiedersi come li ha spesi l'Italia, anziché forse unirsi al coro anche qui di chiedere all'Europa di intervenire. Cominciamo con queste puntualizzazioni, Frassoni. Quanti soldi e perché ha ricevuto l'Italia negli ultimi anni e come sono stati spesi? Ma diciamo che l'Italia, insieme agli altri paesi dell'Unione Europea, ha pensato, ha sostenuto l'idea che la priorità fosse quella di limitare l'ingresso di profughi, di rifugiati o immigrati alle frontiere, e quindi è stata d'accordo con mettere molte risorse, per quanto riguarda appunto le limitate risorse europee, su questo controllo di frontiere. Quindi, essendo un paese che rappresenta la frontiera, una frontiera vera e propria, assoluta, certo, ha speso moltissimi soldi di questo famoso fondo Frontex, che sono circa 112 milioni di euro, per fare questo. E quindi l'Italia non è una cosa speciale rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, nel senso che nella priorità europea di respingere o di controllare le frontiere, l'Italia ha approfittato della sua posizione e quindi è uno dei maggiori paesi riceventi di risorse per quanto riguarda Frontex, ma non solo, sì, anche il fondo per il controllo delle frontiere, i fondi per il controllo dei rimpatri, eccetera. E c'è una porzione importante fra questo lavoro e invece quello che dovrebbe essere anche una priorità dell'Unione Europea, che è quella della integrazione di coloro che già sono entrati nel nostro paese e soprattutto, perché di questo si deve parlare in questo momento, di coloro che arrivano e che sono in una situazione di emergenza, di fuga dalla guerra e che quindi sono una categoria diversa rispetto ai migranti. Cioè lei parla dei richiedenti diritto d'asilo. Asilo, sì, esatto. Sotto tutti questi punti di vista l'Italia è carente e quindi, se è vero che anche la politica dell'Unione Europea ha delle priorità, sì, sbagliate, molte direttive sono bloccate dagli stati membri, è anche vero che il modo attraverso il quale noi abbiamo gestito questo fenomeno è sbagliato, e quindi rigettare sull'Unione Europea tutte le responsabilità è profondamente sbagliato. Senta, ma secondo lei, mi scusi, questi fondi che l'Italia ha ricevuto, quindi insomma quasi 200 milioni di euro credo negli ultimi due anni, sì, facendo le somme di quello che lei ha detto, secondo lei sono stati anche proprio spesi male dall'Italia oppure non bastano e ci vuole di più? Ma io penso che siano stati spesi su priorità non giuste, nel senso che quando si spende per respingere, per riportare a casa 2.000 migranti 8 milioni di euro, e questo non è una cifra per l'Italia ma è una cifra, cioè, 8 milioni di euro per qualche mese, sì, è evidente che c'è un problema. E quando si spendono 145 milioni di euro per tenere aperti i CIE, che sono questi, sì, centri di identificazione ed espulsione, della quale le condizioni di vita sono terrificanti, c'è un problema. Quindi io penso che il problema della quantità dei soldi debba essere misurato anche rispetto all'efficacia di questa spesa e anche alla priorità politica che a questa spesa si dà. Quindi io non penso che sia necessario, sia possibile mettere sullo stesso piano o noi facciamo entrare milioni e milioni di persone domani mattina oppure li respingiamo tutti, perché entrambe queste soluzioni non sono giuste. Bisogna iniziare a distinguere il problema dei rifugiati, sì, dal problema dei migranti. A questo proposito, Frassoni, sì, mi scusi. In questo momento è evidente che, essendoci una situazione di conflitto, sì, di guerra, in parecchi paesi della zona mediterranea. È chiaro, la pressione è di quel tipo lì. A questo proposito, un altro dato che lei ha citato in maniera insomma un po' isolata rispetto a quello che invece è stato un po' il coro unanime, ed è anche per questo che oggi l'abbiamo chiamata, è a proposito proprio delle domande d'asilo. In Italia quante ne ha ricevute e invece quante ne hanno ricevute altri paesi come la Francia o la Germania? Cioè ne viene fuori il fatto che l'Africa spinge, l'Italia è la porta d'ingresso, però poi si va altrove, quindi anche questa cosa, come dire, fa sì che l'Italia non sia isolata in Europa, ma no, i problemi infatti, ce li hanno tutti. L'Italia ha ricevuto tra il gennaio e il luglio di quest'anno 6.700 domande di asilo, la Francia ne ha ricevute 29.000 e 51.000 la Germania. In un anno la Germania ne ha ricevute 77.000, e tra l'altro la Svezia, che come noi tutti sappiamo è un paese molto più piccolo del nostro, ha ricevuto 43.000 domande di asilo, ed è peraltro l'unico paese dell'Unione Europea che ha in questo momento adottato delle normative per accettare le richieste dei rifugiati siriani senza limitazioni numeriche, anche se poi su questo ci sono una serie di limitazioni, ma è così. Quindi anche la Grecia, quando diceva l'Italia lei, dice di essere una frontiera, è vero, però allo stesso tempo non può dire che gli altri paesi non stanno facendo nulla. Anche la Grecia, diceva lei, che è un paese in ginocchio, ha ricevuto un sacco di richieste. Come dice? La Grecia, anche la Grecia, che è un paese sicuramente più in difficoltà dell'Italia. Oltre che richieste, non sono soltanto richieste, ma sono proprio persone fisiche, circa 70.000, che premono alle sue frontiere. Quindi purtroppo non c'è niente di facile in questo mondo. Sì. Nel momento in cui un paese come l'Italia, ma anche ovviamente ancora di più la Grecia o la Spagna, sono obbligate a tagliare su tutto e quindi ad avere una politica generale che diminuisce sempre di più le risorse per assistenza, ma non soltanto ai propri cittadini, ma anche a quelli che arrivano da fuori, tutte queste situazioni di crisi scoppiano sempre di più. E quindi oggi la risposta che l'Unione Europea sta dando, per esempio a pochissimi giorni da quello che è successo a Lampedusa, è quello di dire: rafforziamo Frontex, diamo più strumenti a Frontex e quindi rafforziamo le frontiere, cioè facciamo ancora di più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Ed è completamente evacuato dal suo dibattito il fatto che c'è una guerra in Siria, c'è una legislazione europea dal 2011 che permette l'applicazione di protezione temporanea per queste persone, ci sono dei modi per aiutare i paesi che in questo momento hanno milioni di rifugiati sui loro territori. Tra l'altro mi scusi, ma nulla di tutto questo viene discusso. Sì, un'altra cosa, nulla di tutto questo viene spiegato all'opinione pubblica. Ecco, un'altra cosa su cui che si dice spesso, no? Bisogna aiutarli a casa loro. Poi però anche lì i fondi dell'Italia, almeno per la cooperazione, diminuiscono e quindi questo non viene fatto, ma viene detto, ma però poi appunto non viene fatto. Un'altra cosa che però le volevo chiedere, Frassoni, è questa: a proposito della questione del reato di clandestinità che è stato introdotto in Italia dalla legislazione recente, si è aperto un dibattito adesso perché per abolire questo reato di clandestinità, perché ci sono una serie di contraddizioni, per esempio insomma chi aiuta i migranti in mezzo al mare rischia di essere incriminato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, poi si riempono i tribunali di procedimenti, non si sa come respingerli eccetera. In Europa, da ex appunto europarlamentare, esiste, non esiste, dove esiste il reato di clandestinità? Allora, guardi, apriamoci un po' all'Europa, cerchiamo di capire. Questo è un problema posto in un modo un po' strano, nel senso che sì, è vero, in vari paesi esiste il reato di immigrazione clandestina. In nessun paese esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, nel senso come esiste da noi, e in nessun paese viene punito l'ingresso dell'immigrato clandestino. Ma anche se tutti i paesi dell'Unione Europea e addirittura anche se ci fosse una direttiva che non c'è, che permette il reato di immigrazione clandestina, questo non è che lo renderebbe più giusto, non so come dire, perché l'Italia e anche altri stati europei sono stati duramente redarguiti e l'Italia è stata anche condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché la sua politica di immigrazione e in particolare questa queste leggi che producono clandestini non servono, questo è quello che dobbiamo dire, non è solamente una cosa buonista, ma queste legislazioni che rendono difficile la vita delle persone che sono entrate legalmente nel nostro paese, che magari lavorano già e che hanno una situazione legale e che possono scivolare nell'illegalità in un modo estremamente semplice, sono delle legislazioni che non servono né a controllare né tantomeno a integrare queste persone che lo debbono, insomma, noi abbiamo 4 milioni e mezzo di migranti in Italia e ce ne sono 650.000 in posizione irregolare, adesso dipende un po' dai dati che vengono poi dati, non sappiamo se sono precisissimi, però insomma questo è l'ordine di grandezza. Quindi il problema del reato di immigrazione clandestina è che non risolve la situazione, bisogna creare dei canali di migrazione legale più realistici. Bisogna fare in modo che si possa chiedere l'asilo anche nei luoghi dove queste persone si trovano e bisogna fare in modo di evitare degli episodi veramente crudelissimi come sono stati quelli dei respingimenti della Lega. A me, francamente, se posso dire una parola, fa molto effetto le dichiarazioni della Lega in questo periodo, perché sono estremamente efficaci, ma in realtà dimenticano che i loro naufragi di Lampedusa, costati veramente migliaia di morti, sono avvenuti senza che nessuno li vedesse, questo è il punto. E il fatto che invece quello che è successo a Lampedusa si è visto ha ovviamente determinato una reazione molto, molto forte, e speriamo che si faccia di più che semplicemente dire rafforziamo Frontex. Va bene, ci fermiamo qua, grazie a Monica Frassoni, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, tra pochissimo adesso il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Vai, sentiamo subito un paio di ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Claudio da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Prego. Premesso che sono contrario all'abolizione del reato di immigrazione, mi sembra che... Come reato di immigrazione non c'è però, scusi, reato di immigrazione clandestina, reato sì, di clandestinità. Clandestina, sì, insomma, sì, manca sì. L'aggettivo clandestino. No, perché se l'ho detto così sembrava un po' folle. Prego, Claudio. Sì. Sì. In questo momento mi sembra come discutere sulle leggi antisismiche durante un terremoto, cioè appena è successo un terremoto. Vabbè, prima o poi però bisogna discuterne e quindi non perdiamo l'occasione. Sì? Bisogna andarli a prendere con i traghetti, nel senso che se la Libia permette di partire su questi barconi a 300-500 alla volta, a farli morire in acqua, quindi la Siria li ammazza col gas e la Libia li ammazza con l'acqua, noi non possiamo stare a guardare. Bisogna immediatamente andare con i traghetti a prenderli, con l'esercito. Beh, lei non ha tutti i torti, questo sarebbe un tipo del genere. Grazie Claudio, sarebbe davvero guardare in faccia la realtà e non far finta di nulla, perché è chiaro che quello che lei propone, che forse è difficile da fare, o addirittura secondo molti, stando ai sondaggi, a quello che si dice su reato di clandestinità, eccetera, non auspicabile da molti, però le dice andiamoli a prendere, così evitiamo che succeda quello che è successo in mezzo al mare, anche ieri notte. Mario da Napoli, velocemente, buongiorno. Sì, prego. Sì, eccolo qua. Sì, guardi, praticamente non vedo perché dovremmo sempre aiutare. Dovrebbero essere i governi a regolarizzare questo flusso e questi problemi. Cioè, ma i governi siamo noi, Mario, i governi siamo anche noi, ha capito? Non è? Cioè i governi rappresentano gli stati e gli stati siamo noi, quindi... Noi abbiamo tanti problemi interni nostri. Questo anche è vero. Tanti problemi, stanno gente nelle baracche da decenni. Però che dobbiamo fare con questa gente che arriva dall'Africa? Che dobbiamo fare? Respingerli in mezzo al mare non si può. No, ma non a un certo punto far rendere responsabili anche gli altri. Gli altri chi? Gli altri chi? Mario, gli altri chi? Mario, gli altri chi? Va bene, grazie Mario, grazie. Adesso andiamo a Torino. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento. Dentro l'aria sporca il tuo sorriso contro vento. Il cielo su Torino sembra muoversi al tuo fianco. Tu sei come me. Un altro giorno, un'altra ora ed un momento. Perso nei miei sogni con lo stesso smarrimento. Il cielo su Torino sembra ridere al tuo fianco. Andiamo a Torino perché anche raccontare una bella storia. Abbiamo bisogno di belle storie, anche e soprattutto di cittadini immigrati che ce l'hanno fatta, perché non sempre l'immigrazione è quello che vediamo sui giornali con i naufragi, non sempre gli immigrati finiscono a riempire le patrie galere, ci sono anche storie che vanno bene, ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di credere che tutto questo ha un senso. La storia che vogliamo raccontare è quella di Rashid, dal venditore di accendini al laureato al Politecnico di Torino. Buongiorno Rashid. Buongiorno, buongiorno. Una storia che è uscita sui giornali, sulla cronaca locale di Repubblica, e poi è stata condivisa sui social network, tutti con grande entusiasmo, è diventato... C'era anche uno dei Subsonica alla tua laurea, è vero? Sì, sì, sì, infatti tutta questa popolarità è stata assolutamente inaspettata. Ma come mai? Cioè, era un tuo amico, lo conoscevi, oppure è venuto proprio perché si è fatto il tam-tam su questa storia? No, appunto, con la, diciamo, l'attività che avevo, ho incontrato tante persone. L'attività che avevi era quella di andare sotto i portici a vendere gli accendini, vero? Esattamente, sì. E quindi mi sono fatto tanti amici, poi lui appunto era residente proprio lì in Via Po, quindi lo vedevo quotidianamente. E quindi siete diventati amici, quando ha saputo che ti laureavi ha detto vengo anch'io perché è un bel momento, insomma. Sì, sì, sì, sì, esatto, infatti appunto quel giorno lì erano veramente lui e tantissimi altri amici che... Rashid, da che età sei arrivato in Italia? Io sono arrivato nel 98 e avevo 11 anni. 98? Sentite l'accento piemontese. La scappi, com'è lei? E quanti anni avevi, scusa, 9 anni? 11. 11 anni. E hai imparato l'italiano, addirittura il piemontese, benissimo adesso. Sì, forse anche appunto, data l'età, forse era più facile acquisire la lingua. Certo, poi c'era stata una professoressa gentilissima che alle medie... mi faceva da, diciamo, da, mi portava gli articoli sia in italiano sia in arabo. Ecco, però anche... Rashid, veniamo a, ti sei laureato in che cosa? In ingegneria gestionale? No. Ingegneria civile. Scusa, civile. Con che votazione? Ma la votazione, appunto, date le circostanze, era un po' bassa. Poi all'inizio. Come date le circostanze? Vabbè, sì, perché tu hai fatto uno sforzo. Ora ci stiamo scherzando, no? Perché sembra tutto facile. Però pensate, un ragazzo immigrato, voi siete arrivati in Italia con la tua famiglia in macchina? Esattamente. Da irregolari, sì. Immagino. No. No, io no, perché appunto essendo ero arrivato piccolo per motivi di studio non ci sono nessun tipo di problema. Ok, però cioè, arrivato in Italia in macchina, imparato l'italiano, soldi in famiglia pochi per studiare, hai dovuto mantenerti e vendere gli accendini. Studiare ingegneria in una lingua diversa dalla tua, magari combattere anche il pregiudizio razziale. Insomma, tutto questo per un ragazzo, quanti anni hai? Adesso 26. Insomma, capite che non è facile, quindi diceva Rashid, la votazione alla fine data le circostanze non è stata altissima, ma l'importante è compiere un percorso bello, importante come questo. Che impressione ti fanno invece le immagini purtroppo che abbiamo visto in questi giorni di Lampedusa e queste persone che hanno condiviso un pezzo della tua storia, quella almeno di partire dal proprio paese per venire a cercare fortuna in Italia? Cosa pensi quando vedi queste immagini, Rashid? Purtroppo appunto veramente sono delle notizie veramente brutte e appunto cioè anch'io appunto avevo vissuto una situazione analoga, appunto senti proprio la forza, hai proprio una voglia di cambiamento e quindi forse sei anche poco razionale a valutare, cioè c'è una, diciamo, spinta grossa a fare anche poco razionale, perché naturalmente chi si mette in mare in quel modo per esempio rischia molto, ma chiunque mette in gioco la propria vita rischia molto. Cosa ti ha spinto a te ad andare avanti a crederci? I tuoi parenti, gli amici, la fiducia in te, la fede, che cosa? Ma allora, io inizialmente appunto i miei familiari con l'età non erano proprio d'accordo che me ne andassi dal Marocco con l'età. E io sono arrivato al punto che appunto mi rifiutavo di andare a scuola lì alle elementari. E poi appunto quando hanno visto questa mia presa di posizione mi hanno, diciamo, lasciato venire. Quindi la famiglia ti ha sospinto, ma è stata la tua determinazione a spingerti, la forza dentro di te l'hai trovata. Sì, sì, sì, esattamente. Cosa vorresti fare adesso? Perché poi in Italia per fortuna hanno sostenuto tutti gli amici incentivando. In 20 secondi, perché dobbiamo salutarci, cosa vuoi fare? Perché qua adesso inizia il difficile, in Italia c'è tanta disoccupazione, Rashid. È una bella domanda, infatti appunto io La prerogativa è sul lavoro più che il cioè adesso inizia il bello. Qualunque lavoro l'hai già dimostrato facendone tante di cose per mantenerti. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ogni volta che rientriamo abbiamo un problema con la base che non parte, non si sa perché. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, si può fare. Ecco i nostri contatti su Facebook, ma anche su Twitter, @ si può fare 24. Il mio account è @ Ale Maurizi. Tra poco riprendiamo anche a sentire i vostri interventi all'800 24 00 24. Questa settimana introduciamo un altro argomento che ha a che fare con la cultura. C'è stata la conversione in legge del decreto Valore Cultura. Qualcuno è rimasto deluso perché si pensava che potessero essere messe delle correzioni a un qualcosa che era stato fatto in sede di stesura di questo decreto, invece è rimasto com'era. In particolare ci sono dei paletti un po' rigidi per l'ingresso dei privati nelle fondazioni culturali, in particolare nei teatri e negli enti lirici, come scrive Salvatore Caruba sul Sole 24 Ore di questa settimana, ma non solo. E allora si evoca sempre l'intervento dei privati nella cultura, poi però di fatto con le leggi si mettono dei paletti e si rendono le cose un po' più difficili. Però noi, che abbiamo sempre uno spirito positivo, vi vogliamo raccontare, prendiamo a pretesto questa notizia per raccontarvi una bella storia di un incontro felice, questa volta sì, tra un privato e pezzi concretissimi della nostra cultura. Sentiamo quali. Questa è la colonna sonora di Indiana Jones, perché il nostro ospite è Lorenzo Benini, imprenditore e amministratore delegato della Costeglia di Barberino del Mugello in provincia di Firenze. Fa l'imprenditore, ma si diletta nel tempo perso, lui e la sua famiglia, anche durante le vacanze, a scoprire tombe etrusche, insomma a fare un po' l'Indiana Jones della situazione. Buongiorno, l'abbiamo convocato e qua con noi Lorenzo Benini. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Era un po' scontata forse l'Indiana Jones, però ci stava. Le è piaciuta? Direi che però Indiana Jones tutto sommato è una figura che non mi si attaglia. Io lei è un po', non è così avventuriero come Indiana Jones? Ma no, ma anche perché insomma io finanzio soltanto chi ne sa molto più di me, sì. Per cui gli archeologi e tutti quelli che sono i gruppi che fanno ricerca, ivi compreso però, poi la sovrintendenza e così certo, via. Questo adesso poi lo specifichiamo, certo, però anche lei poi ama, fa queste, spende di tasca sua, ma anche perché ha una vera e propria passione, almeno a quello che abbiamo capito. Lei stesso partecipa, tra l'altro, forse se abbiamo letto bene, anche con la sua famiglia a questi scavi? Sì, questo sì, è una passione che io fin da ragazzino l'ho sempre coltivata, faccio tutt'altre cose, però cerco sempre di tenermi vicino a un mondo bellissimo che potrebbe dare molto di più a tutti noi, a tutta l'Italia, alla nostra nazione, per il lavoro, per la cultura e così via. Lei di cosa si occupa con la sua azienda intanto? Io faccio logistica per conto di terzi, in particolare per aziende di moda e di fashion in generale. E come è nata invece appunto questa passione per l'archeologia? Poi diciamo anche che cosa, qual è la notizia insomma per cui lei è poi finito sui giornali? Lei ha questa passione? Devo dire grazie a babbo e mamma che mi hanno un po' dato questa grande eredità verso l'archeologia e poi i miei studi e le bellissime cose che perlomeno si studiavano una volta a scuola. Ora vedo per esempio mia figlia di 10 anni che ha molte meno possibilità di approcciare un mondo meraviglioso come quello dell'archeologia. Perché dice che si studia meno il mondo della storia dell'arte a scuola oggi che in passato? È molto più spalmata, cioè quello che veniva fatto normalmente, ripetuto prima alle elementari, poi alle medie, poi al liceo, oggi è spalmato in una grandissima pentola dove bollono tante cose, ma i ragazzi poi non hanno modo di approfondire. Ecco, però partiamo appunto da questa. Lei è un imprenditore, si occupa di logistica, ha questa passione tramandata anche dai genitori per l'arte e per l'archeologia. A un certo punto lei com'è che decide di investire di tasca propria su alcuni scavi archeologici in Toscana? Beh, io guardi, gli scavi archeologici sto investendo nell'area di Tarquinia, quindi stiamo parlando della Tuscia, sì, dell'Alto Lazio. Beh, diciamo che io ho sempre avuto nei confronti dell'archeologia una sorta di pentimento, dato che quando ho dovuto scegliere l'università, per cinismo ho scelto di fare economia e commercio. Quindi faccio ammenda attraverso il finanziamento di questa mia passione, poi della cultura archeologica, quello che avrei voluto fare di mestiere. Cioè lei sta pagando un conto con se stesso in pratica, avrebbe voluto fare qualcos'altro, storia dell'arte, occuparsi di questo, non l'ha fatto, ha scelto una strada più pragmatica, però adesso ha questa possibilità. Ma quindi lei ha investito di su alcune decine di migliaia di euro, credo, forse 50.000 sì, euro. No, beh, attenzione, gli scavi archeologici, al di là di quello che uno può pensare, sono un'operazione di lungo termine, cioè non si deve mai aspettare il fatto eclatante. L'archeologia, scienza e pianificazione è studio molto approfondito, quindi non si può mai dire, ecco, non so, prendo l'esempio del restauro del Colosseo, metto giù tanti soldi, faccio un'operazione molto importante su qualcosa che esiste già. L'archeologia non è diverso, certo, bisogna andare a scavare per scoprire, non è? Il Colosseo c'è già, Della Valle ha deciso di investire di suo per dare una mano e per avere un ritorno anche in questo caso qui di pubblicità. Però lei invece ha investito comunque di suo in questi scavi. Diciamo anche che cosa ha contribuito a scoprire: una tomba etrusca, vera? Con Quest'anno, allora, io sto collaborando con l'Università di Torino e la Sovrintendenza dell'Etruria da ormai 3 anni, quindi questo è il terzo anno, 2011, 12 e 13. Quest'anno lo scavo è stato finanziato pressoché integralmente da privati. Io ho un altro compagno d'avventura di Saluzzo, Pietro, che magari saluto. Diciamo che abbiamo fatto questo investimento su quella parte di scavo, su un tumulo monumentale etrusco del VII secolo a.C. Quest'anno nell'area monumentale, nell'area funeraria intorno a questo grande tumulo, sono uscite fuori delle tombe, e in particolare una tomba del VI secolo, inizio VI secolo a.C., una tomba principesca, completamente inviolata e completamente intera nella sua parte di corredo e addirittura nelle deposizioni. Ecco, ma lei come si definisce? Un mecenate? Cioè uno che... Io direi mecenate è la parola giusta, perché mecenate è colui che mette i soldi ma partecipa, lo sponsor lo fa per tutt'altro motivo, insomma. E lei porta anche la sua famiglia, signor Benini, lei porta anche la famiglia d'estate, trasmettere questa passione. Non so se i suoi figli sono contenti invece di andare in vacanza all'Isola d'Elba, di andare a Tarquinia a scavare. Ma io direi, guardi, io ho una bambina piccola, 10 anni, che magari non è mai stata a Gardaland, però riesce a leggere l'etrusco, che insomma non è da poco. Anche la mia figlia, quella più grande, ogni tanto viene e partecipa, come lo fa del resto la Senta, mia ci dobbiamo compagna. Fermare un secondo perché abbiamo il traffico, siamo andati un po' lunghi. Prego. Poi le voglio chiedere dopo, in 30 secondi, lei sicuramente ci dirà di sì, però ce lo motiva, perché si deve investire in Italia in cultura e perché con la cultura in Italia si può mangiare, contrariamente a quello che diceva un noto ex ministro dell'economia. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo insieme a Lorenzo Benini, 52 anni, fiorentino, imprenditore che ha contribuito di tasca sua e anche con le sue mani a scoprire una tomba etrusca a Tarquinia. Per chiedergli questo: è giusto investire in cultura in Italia? Bisogna farlo sempre di più, perché con la cultura si può mangiare. Sì, per due motivi. Intanto la cultura è la base su cui costruire la conoscenza, diciamo tutto quello che un essere umano può basare per la propria crescita e la propria evoluzione. Senza le proprie radici, senza la base culturale, non andiamo da nessuna parte. Vorrei dire che con la cultura si può mangiare, si può creare business, si può creare lavoro. Io lo vedo, l'ho visto in questi 3 anni lavorando con gruppi di persone, specialmente gli archeologi, le università, la Sovrintendenza, persone meravigliose che hanno un profondo amore per il loro lavoro e non riescono purtroppo per mancanza di mezzi a portarlo avanti. Un'ultimissima cosa, Benini, sì, chiariamo questo punto, sì, mi scusi però, perché lei, sì, tutto quello che lei ha scoperto, cioè, resta poi a chi? Alla sovrintendenza? Non è che se lo porta a casa lei, perché magari qualcuno non ha capito. Sì. Ecco, no, qui dovrebbero intervenire attraverso dei progetti, sì, dei disegni di legge ben precisi, sì, i privati, e riuscire a creare e mettere a disposizione queste aree monumentali, sì, per la visita delle persone. Noi in questi anni abbiamo avuto tantissime richieste di persone che avrebbero voluto venire a vedere i nostri scavi, avrebbero voluto partecipare in qualche maniera, ma purtroppo queste possibilità non ci sono. Io credo ci siano tanti privati pronti a investire nella cultura, nei monumenti, purtroppo la legge non ce lo permette. Ecco, e questo è il punto da cui siamo partiti. Grazie intanto a Lorenzo Benini per essere stato con noi, buon lavoro. Poi. Perché, grazie, ne ha bisogno, visto che ne fa due di lavori, l'imprenditore e lo scopritore di tombe etrusche. Interessantissimo. Adesso, ascoltatore, l'800 24 00 24, naturalmente lui è fortunato perché può farlo, c'è chi non se lo può permettere, però c'è anche chi potrebbe permetterselo e non lo fa, e questa è la differenza. Renata da Lucca, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ho chiamato per, sì, la questione degli immigrati, chiaramente. Sì. Sì. Allora, mi tocca molto perché io faccio formazione appunto a queste persone per poterle inserire in un ambito lavorativo. Quando vedo questi barconi che vanno a fondo, sinceramente mi viene da piangere. Perché, come diceva l'ascoltatore prima, perché non andiamo a prenderli veramente da dove arrivano, invece di farli morire in acqua o con il gas, come ha detto appunto l'altro signore prima? Renata, mi aggiungo anch'io a questa domanda, che può sembrare una domanda, sì, retorica, ma invece potrebbe assolutamente non esserlo. Del resto, tra le proposte in campo, grazie intanto a lei per aver chiamato, è quella di spostare la domanda per il diritto d'asilo nei paesi di frontiera prima di fare le traversate in mare. Quindi, per esempio, perché no, in Libia, attraverso organizzazioni internazionali, adesso che la Libia si sta stabilizzando faticosamente, o altrove, e quindi poi fare dei trasporti che non siano coi barconi, ma magari con dei traghetti. Francesca da Varese, buongiorno. Ah, salve, dottor Maurizio, buongiorno. Su questa cosa degli immigrati posso aggiungere che, guardando, sì, l'autobus, lo hanno detto anche il sindaco di Bari, e poi l'ha ribadito concordando l'ex ministro Paolo Ferrero. Che cosa hanno detto, scusi? La questione di, per evitare le tragedie, sì, diciamo, degli annegamenti, di andarli a prendere, certo, dai paesi di partenza. Visto che, non come dice Lara Comi e tutto il centrodestra, è una minaccia di invasione, bensì una emergenza umanitaria che richiede sinergie. E che va gestita, tutte le idee, sicuramente. Tutte le idee poi volevo aggiungere, velocemente, riguardo, sì, alla cultura. Sì. Pronto? Sì, sì, velocemente, perché poi abbiamo un altro ospite. Prego, sì, Francesca. È persino superfluo dire che bisogna investire non in TAV e non in ponti, ma in cultura e in valorizzazione del nostro patrimonio, che è splendido e che attirerebbe altro che i turisti che abbiamo ora, ci metterebbe al primo posto al mondo davanti a tutti, perché con quello che abbiamo da offrire, se solo potessimo meglio recuperare, presentare, aprire, ci sono posti stupendi che sono chiusi. Io ricordo una puntata di Iacona, che c'era la piscina Mirabilis sopra Napoli, sì, addirittura chiusa, no? Una cisterna romana stupenda, no? Se andate in internet a cercare piscina Mirabilis. Vabbè, insomma, ce ne sono tante di cose da scoprire, compresa questa che citava lei. Grazie, c'era Francesca. C'era, sì, una vecchia anziana con la chiave che bisognava andarle a bussare la porta per farsela aprire. Lo so, è incredibile. Vi abbiamo appena raccontato un'altra storia, quella di un imprenditore che ci ha dato, che ci mette del suo a fare tutto questo. Grazie, Francesca. Studenti di tutta Italia, unitevi. Ti do Livio, di Geroni. Combiniamo così, senza contare la voglia di non cambiare. Una storia di privati che intervengono nella cultura a una storia di aziende private che cercano di sostenere la scuola. Due vicende parallele, se vogliamo. Questa qua, che però vi stiamo per raccontare, fa discutere, perché non tutti i sindacati, per esempio, non sono molto contenti, sono favorevoli. Ci sono anche delle pubblicità che stanno andando in onda proprio in questi giorni. Parliamo dell'iniziativa Missione Scuola, portata avanti dalla Eco Store. Adesso ci racconterà come il suo titolare, Alessandro Gerardi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'iniziativa è questa, insomma, chi fa degli acquisti presso i vostri negozi può aiutare tramite, per esempio, la consegna di risme di carta alcune scuole. Forse si può addirittura anche scegliere la scuola da aiutare, Gerardi? Sì, è stata proprio una nostra scelta. Quella ci aveva un po' incuriosito il fatto che proprio all'inizio dell'anno scolastico, da molti anni, venivano i genitori a comprare il risme di carta perché per la scuola, poi i figli per la scuola. Allora, voi avete pensato di inserirvi in questa... È una sorta di pubblicità progresso, è una forma di pubblicità che voi vi fate, cioè cercate di creare interesse sui vostri punti vendita, però con uno scopo buono, che è quello appunto di aiutare le scuole. Ci spieghi meglio il meccanismo, poi veniamo anche alle polemiche che immancabilmente ci sono state su questa iniziativa, che ripeto va in onda anche con delle pubblicità su reti nazionali, è vero? Esatto. Mi sembra di averle viste anche sulla 7. Sulla 7, esatto. Ecco. Sì. Di cosa si tratta? La dinamica è molto semplice. I nostri clienti abitualmente che acquistano da noi, a fronte di un acquisto di 10 euro in multipli, possono destinare 50 fogli di carta riciclata alle scuole, che decidono loro quali siano. In effetti è proprio un concetto di prossimità. Quindi abbiamo 330 negozi in tutta Italia, quindi tutti i nostri consumatori sono bene o male indirizzati poi a orientare l'omaggio alla scuola più vicina, e molto spesso quella dei figli e dei nipoti. E come sta andando questa iniziativa? Ma molto bene, molto bene. Sì. Siamo già arrivati a 2,5 milioni di fogli, quindi l'obiettivo era di 5 milioni di fogli a fine campagna. Considerando che siamo a un terzo della campagna, siamo a 2,5 milioni di fogli, vuol dire che le persone l'hanno compresa, l'hanno capita, la stanno sicuramente. Per voi questo è un investimento, no? Cioè, invece di investire semplicemente in pubblicità, investite in questa attività, in questa carta che poi viene regalata alle scuole, certo. Che avrà un costo per voi. Per voi il ritorno è un ritorno di immagine. Sì, è un ritorno di brand, di posizionamento di brand, perché crediamo molto in certi valori, crediamo molto nel fatto che nella cultura e quindi nell'istruzione, siamo un'azienda che vive il reuse, quindi il riutilizzo delle cartucce in modo molto attivo, ormai da 10 anni, sì. E quindi con questa coerenza di valori e vicinanza di valori abbiamo deciso di fare questa campagna, che è una campagna anche dal punto di vista civico, quindi aiutiamo le scuole che non hanno materiale. Le scuole credo che insomma gradiscano. Devo dire che le critiche dei sindacati, CGL, sì. CISL soprattutto, ma anche forse un po' meno, ma anche la UIL, non sono tanto contro di voi, quanto contro il fatto che tutte queste iniziative di ingresso in qualche modo diretto o indiretto dei privati nel sostegno economico della scuola possono formalizzare un po' l'assenza di interventi invece questi sì dello Stato, e quindi diciamo è un po' una critica per difetto che viene fatta all'iniziativa, se ho capito bene. Sì, ma bisogna anche considerare il fatto del momento contestuale in cui viviamo. Sì. Chiaramente le difficoltà economiche la scuola le ha, è inutile negarle, è inutile comunque fare delle discussioni in quello dal mio punto di vista. È chiaro che come azienda ci siamo messi in campo per aiutare questo tipo di situazione, quindi per sollevare, perché chiaramente la nostra azione da sola non basta. Sono convinto che se poi molte aziende iniziassero a ragionare dal punto di vista promozionale, anche il posizionamento di brand, sarebbe comunque un bene per il sistema da questo punto di vista. Io ricordo che ci sono anche alcuni ipermercati che fanno le raccolta punti, quelle tessere di fedeltà, sì. Con finalità sempre regali alle scuole, quindi non è l'unica iniziativa la vostra, questa missione scuola, che tra l'altro la vostra iniziativa ha una durata? Scade? Fino a fine mese. Fino ecco, quindi chi vuole andare a dare una mano può fare, cioè dare una mano, naturalmente andare a fare acquisti. Ecco, contribuire, sì. Contribuire, sicuramente sì. Noi lo ringraziamo, Alessandro Gerardi, titolare della EcoStore, grazie per essere stato con noi, ci ha raccontato questa iniziativa. 800 24 00 24, vorrei sentire anche che cosa ne pensano gli ascoltatori, perché mentre nel primo caso che vi abbiamo raccontato, l'imprenditore Benini Fiorentino, è più difficile trovare, averci qualcosa da dire, perché questo ha messo soldi di tasca sua per scoprire le tombe etrusche, non ci sono probabilmente controindicazioni, in questo caso i sindacati hanno avuto qualcosa a dire su questa iniziativa che appunto mira a donare carta alle scuole attraverso gli acquisti in questi negozi. Ecco sto 800 24 00 24. Prima però spazio ad una segnalazione, una iniziativa che ha sempre a che fare con la formazione. A Castiglione della Pescaia il comune sfida la crisi finanziando i corsi di formazione per gli operatori del commercio. A raccontarci questo progetto per il sostegno delle imprese locali è il sindaco Giancarlo Farnetani. Il primo progetto che è partito in sostanza è quello relativo all'intervento nei confronti del mondo del commercio, quindi abbiamo sostenuto l'attività del centro commerciale naturale tesa alla valorizzazione del tessuto commerciale del nostro territorio. E poi conseguentemente abbiamo sviluppato un accordo con le associazioni di categoria del commercio e attraverso le proprie agenzie formative abbiamo deciso di sostenere le nostre aziende promuovendo quei corsi che oggi sono diventati corsi obbligatori per tutte quante le aziende a partire dall'HCCP e mettendo a disposizione delle stesse strutture e agenzie formative la sede, quindi diciamo il progetto che è stato sviluppato in questo periodo si sviluppa attraverso un protocollo d'intesa con le associazioni e quindi questo è l'intervento della nostra amministrazione a sostegno delle imprese del commercio. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Fare. 800 24 0024, ben ritrovati cari ascoltatori, ci chiama Carmela da Vicenza. Buongiorno Carmela. Sì, pronto, buongiorno. Eccola qua, cosa voleva intervenire? Piccolo intervento sull'argomento precedente che riguarda la cultura. Sì. Allora, mi sono trovata spesso a viaggiare perché mi piace, eccetera, e effettivamente la Francia diventa un esempio. Quello che riescono a fare, ad esempio, con tutti i resti romani che in provincia si ritrovano, è fantastico. Se noi riuscissimo a potenziare l'unica industria che non riusciamo a delocalizzare, che è il turismo, con il nostro patrimonio non solo artistico ma anche geografico, secondo me sarebbe veramente una carta vincente. Anche con l'aiuto dei privati, va benissimo così, perché secondo me se tutto aiuta a migliorare va bene sempre tutto. Un piccolo punto sulla scuola, per esperienza ricordo di genitori che volevano prestare la propria opera per fare anche dei lavori all'interno delle non era possibile. Scolastiche. Esatto, non ce n'era per nessuno. Lo sa perché non era possibile? Perché bisogna fare l'assicurazione, per esempio, se uno lavora dentro una scuola, vuole imbiancarla, deve prima fare un'assicurazione, ci vuole un minimo di organizzazione, ne abbiamo parlato qualche volta in trasmissione, quindi questo potrebbe essere il consiglio, organizzatevi perché si può fare anche se ci vuole un po' di sforzo. Grazie Carmela. Esatto. Matteo dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Matteo. Buongiorno, io volevo intervenire sempre sulla scuola perché secondo me l'aiuto privato e la scuola pubblica non devono essere viste sempre come ideologie vecchie in contrapposizione. Secondo me la scuola è il nostro futuro, se non investiamo risorse non andiamo da nessuna parte. Cioè lei dice parte. Purché vengano, purché arrivino un po' di aiuti va bene, il pubblico deve fare la sua parte, se il privato dà una mano. Tra l'altro l'iniziativa Missione Scuola di cui abbiamo parlato, EcoStore, non per fare della pubblicità perché poi dicono che facciamo le marchette, ma ne volevamo parlare perché è un'iniziativa interessante. Tante aziende, tutte si fanno pubblicità, queste decidono di farsi pubblicità, ma invece di spendere per avere un passaggio pubblicitario da qualche parte, spendono per donare carta alle scuole. È una scelta, non c'è niente di male e si avvantaggiano le scuole in questo. Quindi, infatti anche le critiche dei sindacati, ricordavamo, non sono tanto contro l'iniziativa quanto contro le mancanze dello Stato. Abbiamo perso l'ascoltatore, forse sì? Pronto? Ah no, eccolo pronto. Qua, prego, l'avevo interrotta, se vuoi chiudere. No, volevo anche dire che anche altre realtà che volessero fare pubblicità, anche per fare corsi musicali, chi produce strumenti musicali, oppure anche chi vuole dare delle competenze, sarebbe benvenuta, perché la gente comunque lavora, potrebbe lasciare i bambini a scuola anche al pomeriggio e avere anche un ritorno nel loro futuro, che gli creano anche delle competenze operative, non soltanto teoriche. Va bene, grazie anche a lei. 800 24 00 24. Tra poco magari risentiremo ancora qualche ascoltatore. Adesso vogliamo parlare di amnistia. Cioè di amnistia o di indulto, insomma di svuota carceri. Sapete, c'è stato l'appello di Napolitano alle Camere, ne è nata una discussione tra favorevoli e contrari ad un intervento di clemenza. Oggi c'è una manifestazione della Lega, credo a Torino, contro questa cosa qua. Grillo e Casaleggio se la sono presa contro alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, dicendo non è nel programma l'abolizione del reato di clandestinità, ma anche sull'indulto credo che ci sia contrarietà ad intervenire su questo. Noi però diciamo che c'è un altro modo per svuotare le carceri, ed è quello delle pene alternative, cioè fare delle altre cose piuttosto che stare in carcere. Che cosa? Lo chiediamo ancora una volta a Carlo Alberto Romano, presidente dell'associazione Carcere e Territorio di Brescia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che professore di criminologia. Sì, di criminologia penitenziaria. All'Università di Brescia, sempre? Sì, all'Università di Brescia. Perché lo chiediamo a lei, professor Romano? Perché voi a Brescia siete tra quelli che in Italia si muovono meglio nel campo delle pene alternative, delle pene riparatorie, cioè invece di andare in carcere, per esempio, che cosa si può fare, professore? Sì, allora, scusi, devo sgombrare un attimo il campo anche dal punto di vista terminologico. Le misure alternative esistono già e sono previste nell'ordinamento penitenziario. Sì. Non vengono utilizzate nella dimensione opportuna, nel senso che potrebbero essere utilizzate molto di più, e questo già sarebbe un modo per ovviare al problema del sovraffollamento carcerario. Tant'è che nel 2006, prima dell'indulto, avevamo superato le 50.000 unità di persone in misura alternativa. Dopo l'indulto siamo scesi a quasi a toccare un minimo di 20.000 e ora stiamo pian piano. Ecco, ci spieghi un attimo come è inciso questo meccanismo? Cioè le pene alternative prima dell'indulto si faceva ricorso maggiormente e poi dopo di meno. Perché? Che cosa è successo? Non è facile darle questa risposta, ovviamente, perché noi abbiamo il dato statistico e non il dato motivazionale. Innanzitutto c'è un problema tecnico. Buona parte di quelli che avrebbero potuto usufruire delle misure alternative sono usciti e hanno avuto già il beneficio dell'indulto. Va bene, fermiamoci a questo, perché poi non è questo il punto che volevamo toccare. Però questa, diceva lei, è una parte del discorso, anche dal punto di vista terminologico, le pene alternative. Invece noi con voi parliamo anche di pene riparative. Che giustizia, cosa diversa? Giustizia riparativa è un modo diverso di concepire la pena, il castigo, nel quale modello si recupera innanzitutto il ruolo della vittima, che è estremamente defilato nella situazione attuale, sicuramente non adeguatamente considerato né dal codice né dal sistema giudiziario, e poi si mette in capo a chi ha commesso il reato un onere, l'onere di riparare alla ferita compiuta attraverso il reato. Ecco, ma concretamente come si fa questa cosa qua? Guardi, e quali sono le cifre per esempio di voi a Brescia? Sì, concretamente si può fare in due modi: o nel giudizio di cognizione, cioè quello che si conclude con la sentenza che poi, se diventa definitiva, deve essere messa in esecuzione, e in questo senso già si fa qualcosa perché il legislatore ha iniziato timidamente a dare degli strumenti, ad esempio i lavori di pubblica utilità, che oggi sono uno strumento utilizzato soprattutto con riferimento a due ipotesi contravvenzionali ma molto diffuse, il 186 e 187 del codice della strada, che sono la guida in stato di ebbrezza e la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze. Ecco, fermiamoci un attimo a questo esempio: guida in stato di ebbrezza, giustizia riparativa, lavori di pubblica utilità. Per esempio, cosa posso fare? Per esempio, i settori nei quali possono essere svolti lavori di pubblica utilità sono quelli definiti dal decreto ministeriale, quindi non ci si inventa, ma è il rispondere a bisogni della collettività, come ad esempio lavorare in un istituto dove ci sono dei disabili, oppure lavorare per la tutela del verde pubblico, per la protezione civile, nell'ambito museale. Ecco, la interrompo un attimo, perché poi le chiedo anche le cifre di quello che state facendo, certo, voi a Brescia. Riassumo nuovamente. Allora, io vengo beccato mentre guido la macchina in stato di ebbrezza. Sì. Naturalmente vado incontro a una sanzione. Anziché, sì, pagare una multa o andare in galera per qualche mese, poi, esatto, ci sono gli indulti, le cose non si va, sì, però comunque la direzione è quella lì. Sì. Arriva un giudice che stabilisce sulla base di un percorso: no, lei va ad aiutare i disabili, no, lei, esatto, va a pulire i giardini, va a fare queste cose qua. E naturalmente questa cosa incide anche su di me, sulla mia personalità, sull'errore che ho commesso. Voi dite in maniera migliore che non l'andare in carcere, quindi doppio effetto: si svuotano le carceri, che è un problema, e si ottengono i risultati migliori. Le recidive per esempio sono più basse. Anche su questo quali sono le cifre? Intanto, quante persone a Brescia avete coinvolto in questa cosa? Beh, a Brescia è una realtà in cui da quando si iniziano a utilizzare gli LPU oltre 400 persone hanno già usufruito di questo, oltre 400 casi hanno già usufruito, ecco, di questa possibilità. E la recidiva, quindi, è più bassa, dicevamo. Ci sono delle statistiche anche su questo? Sì, per adesso molto limitate, e quindi come dire, da un valore statistico e campionatorio esiguo, però per ora non c'è recidiva, nel senso che chi ha partecipato agli LPU non è, cioè, non sono le stesse persone. Professore Romano, non sia timido, perché lei dice giustamente e correttamente, le statistiche sono, i numeri sono esigui, non possiamo trarre, sì, una conclusione generale, esatto, però intanto sappiamo già che chi accede ai riti alternativi, cioè al discorso che facevamo prima, ha meno recidiva. Nel vostro caso, diciamo, giustizia riparativa, ma siamo nello stesso ambito, le statistiche, sì, dicono per ora che non c'è recidiva addirittura nei vostri... Sì, però per esprimersi scientificamente ci vorrebbe un campione più ampio. No, e non solo, un follow up, cioè un tempo a disposizione per il calcolo della recidiva più lungo. Perché voi siete partiti da quando con questo lavoro, in particolare a Brescia? Beh, la legge è del 2010, è molto recente, è la 120 del 2010 che ha modificato la possibilità di sanzionare in questo modo il 186-187. Senta, quindi è chiaro che stiamo parlando di pochi anni. Troppo poco tempo per avere, appunto, come diceva lei, certo, le statistiche di ritorno, cioè il tempo necessario per vedere se uno poi torna a delinquere o a commettere reati come prima oppure no. In chiusura le voglio chiedere una cosa anche così da commentatore: che effetto le fa il dibattito sull'indulto, sull'amnistia, l'appello di Napolitano, cioè la politica di fronte a tutto quello di cui abbiamo parlato noi, come unica cosa arriva alla fine dell'emergenza e dice ok, svuotiamo le carceri, indulto, amnistia. Voi invece lavorate giorno per giorno per costruire dei percorsi diversi. Queste due cose si incontrano oppure loro sono su Marte e voi... Non siamo tanto vicini, non siamo tanto vicini. Io credo che indulto, amnistia, ogni provvedimento clemenziale possa servire per ricondurci nella legalità che ci chiede l'Europa, ma non sia una risposta, anzi è una risposta destinata in 30-36 mesi a essere di nuovo sopraffatta dal problema. Benissimo, grazie anche per questa risposta sintetica ma molto chiara al professor Carlo Alberto Romano, presidente dell'Associazione Carcere e Territorio di Brescia. L'ho voluto ricordare perché è un'associazione che si sta muovendo su questo terreno della giustizia riparativa, è importantissimo, che come avete sentito porta insieme sia un effetto svuota carceri, sia un effetto di migliore sicurezza sociale, perché c'è meno recidiva in chi va incontro a questi riti di giustizia, chiamiamoli così, alternativi. Vogliamo sentire anche un ascoltatore prima del traffico? Carlo da Roma, buongiorno. Carlo? No, non c'è, lo sentiamo dopo il traffico. Traffico. Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Carlo che ci ha chiamato all'800 24 0024. Buongiorno Carlo, su cosa voleva intervenire? Carlo? No, non c'è feeling con Carlo. Non so, l'abbiamo richiamato. Lui è in ascolto evidentemente, però non ci sente. Carlo? Stava tossendo, evidentemente ha appoggiato il telefono da qualche parte, si è dimenticato di essere in linea su Radio 24. Forse abbiamo un altro ascoltatore, se ce la facciamo, vediamo. Sarebbe bello, se no possiamo leggere un po' di SMS oppure... Cosa facciamo? Ce l'abbiamo un ascoltatore? Sì. Enrico! Enrico dovremmo avere. Buongiorno da Venezia. Ah, buongiorno. Eccolo qua, sì. Niente, volevo fare un breve intervento. Mi chiedevo come mai in Italia, come in altri paesi... il lavoro obbligatorio dei reclusi è considerato lavoro forzato, sì, ed è illegale. Io penso invece che sarebbe molto meglio, laddove possibile, ovviamente nella misura possibile, sì, che sia la norma. Una forma di lavoro. Ma guardi, in realtà non è che sia proprio vietato, cioè è difficile, è complesso, ci sono delle realtà dentro il carcere di Verona, in altri posti, anche no, domani forse ne parleremo. Sono, sì? No, i lavori forzati sono illegali, mi scusi. Sì. No, lei diceva i lavori forzati sono illegali, esatto, all'interno del carcere, i lavori obbligati. Il lavoro obbligato sì, il lavoro si può fare, però è chiaro il suo punto di vista. Lei dice invece si dovrebbe anche prevedere all'interno di un discorso di pena anche la possibilità di forzare le persone a lavorare, sì, questo no, è il suo punto di vista. Secondo me dovrebbe essere la norma, e assolutamente queste persone, come invece succede oggi, non dovrebbero essere pagate, perché un recluso costa diverse centinaia di euro al giorno allo Stato, invece così pagherebbero anche se solo minima parte del loro debito. E imparerebbe anche a guadagnarsi la pagnotta, non so se mi spiego. Si spiega benissimo, grazie Enrico da Venezia, 800 24 00 24. Tu in tre. Passa il vento come un cane, sogni in tasca e cominciare a camminare, camminare senza mete da evitare. Tu in tre. Vabbè, questi sono i Modena City Ramblers e sono la colonna sonora ufficiale della giornata del camminare che si svolge domani 13 ottobre. Noi abbiamo convocato il presidente di Federtrek, Paolo Piacentini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Tra gli organizzatori di questa giornata del camminare? Sì, no, ma siamo proprio gli ideatori. Siete voi. Sì, siamo noi. Federtrek. Quest'anno ha avuto un successo strepitoso in termini anche di... Sì? Mediatici, perché poi ne hanno parlato, ne stanno parlando, ne parleranno, insomma, giornali, radio, televisione, anzi vi ringrazio anche a voi per l'intervento. E siamo arrivati a oltre 200 eventi in tutta Italia, eventi che andranno dal camminare in città per motivi vari, per benessere psicofisico. Sì? Bisogna camminare, fa bene camminare, sì, questo fa bene, è un po' il messaggio. Fa benissimo. Ormai noi abbiamo testimonial Piero Migliaccio, che è uno dei più grandi nutrizionisti italiani, abbiamo filosofi, abbiamo cioè, tutto un mondo molto vario. Perché il camminare è soprattutto un gesto che ci indica la strada migliore per cominciare a fare questa maledetta mobilità sostenibile di cui tanto si parla, e però le città continuano ad essere congestionate. E per risparmiare anche sui soldi della palestra, tra l'altro. Infatti noi diciamo sempre che la crisi economica forse ci sta dando un grosso aiuto in questo senso. Senta qua, tra l'altro, Piacentini, senta questa iniziativa, non so se ha a che fare con la giornata del camminare, però sì, è bellissima. Il sindaco di Vado Ligure, credo mercoledì prossimo, vieterà l'uso della ascensore dentro il suo comune, cioè tutti gli impiegati per combattere la pigrizia dovranno fare le scale a piedi. Io trovo una cosa straordinaria, anzi... No, è straordinario, guardi, fa molto bene, tra l'altro consideri che è una cosa stupenda. Io domenica scorsa, in un anticipo della giornata del camminare a Perugia, ero a camminare addirittura col prefetto e con la ASL, cioè ormai sono le ASL che promuovono il camminare. Pensi che, cioè, anziché dare dei percorsi di cura o delle medicine, dico alla gente vada a camminare, è una cosa pazzesca. Sì, praticamente dei percorsi anche il pomeriggio, la sera, si danno appuntamento in un luogo preciso della città. È iniziato l'ASL di Cesena, poi la cosa si sta diffondendo tantissimo, perché effettivamente crea gruppo, no? Ti fa incontrare di più l'altro. Infatti noi abbiamo detto, visto le tragedie anche di Lampedusa, che forse il camminare, riprendersi lo spazio urbano, vuol dire anche incontrare la faccia dell'altro, il viso dell'altro. Ci racconti però, Piacentini, qualche iniziativa particolare tra questi 200 eventi che ci saranno un po' in tutta Italia, qualche cosa di particolare, di curioso, sì, insomma, la camminata più strana che volete fare domani qual è? Ma intanto, vabbè, a Roma, oltre che strana, saranno veramente tantissime. Una è legata ai diritti, praticamente si partirà dalla FAO, si attraverserà il centro Stalli, la zona appunto dei rifugiati, la casa delle donne. Un'altra è tematica e si farà lungo il parco dell'Appia Antica, legata all'ambiente. Lì ci sarà anche Laura Boldrini, la presidente della Camera, a camminare con noi, ma camminerà sul serio, nel senso... No, no, mi raccomando, non voglio vedere macchine in giro, perché sennò sarà no, una presa in giro. Camminerà con noi 5 ore a piedi. Poi c'è in Calabria, Gioia Tauro, ci tengo perché i ragazzi sono veramente ragazzi d'oro, un nostro gruppo si chiama Sul Trek, che loro fanno camminare anche i disabili, cioè porteranno con loro. Va bene, dobbiamo fermarci qua, purtroppo, poi c'è il sito, potete andare a vedere tutte le iniziative della giornata del camminare. Domani io ringrazio Giorgio De Luca, Isotta Scenna, redazione Andrea Piana, che ha scritto con me il programma, Carmelo Lauricella in regia e rilancio questa iniziativa un giorno alla settimana, l'ascensore chiuso nei palazzi con non più di 4 piani, sarebbe bello farlo anche qua, per esempio al Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Io lancio questa iniziativa una volta alla settimana per combattere la pigrizia, sarebbe bellissimo. Ci vediamo domani, ci sentiamo domani 800 24 00 24 per intervenire, ma questo succederà domani. Buongiorno, sono Katia da Milano. La mia ricetta per salvare l'Italia è ridistribuire tutto quello che c'è, compreso il lavoro, lavorare meno e lavorare tutti, e togliere solo alle persone che hanno una certa quantità di denaro e non più ai poveri. Bisogna far circolare il denaro in modo che si muovano i consumi, ma il metodo è solamente ridistribuire il tutto. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore.